Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e tutti i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Stasera Anima Jazz va in onda in una veste speciale, dedicata al grande trombettista Nunzio Rotondo, che si è spento proprio pochi giorni fa. Nunzio Rotondo è stato uno dei più grandi artisti del jazz italiano, che ha saputo anche imprimere grandi novità con la sua creatività, con il suo impulso creativo e con la sua grande passione, il suo grande amore. Anni fa ho avuto l'occasione piacevolissima di curare una serie di trasmissioni per la RAI, Radio 3, dedicando un'intera settimana a questo nostro grande trombettista, e in quell'occasione raccolsi delle testimonianze che ricordavano il valore artistico e anche l'umanità di questo importante musicista romano. Nunzio Rotondo inizia la sua attività negli anni 50 e in un periodo in cui il jazz italiano era ancora, per usare un termine pittorico, un po' naif, dove la maggior parte dei musicisti vivevano la musica un po' a orecchio, pochi erano quelli che si erano diplomati nelle accademie musicali. Lui era uno di questi pochi e spesso ha rappresentato un faro per i suoi colleghi, per molti musicisti, proprio non solo per la sua conoscenza tecnica, ma anche proprio per il suo coraggio compositivo, per le sue intuizioni. Come ho anticipato, mi piace vivere questa avventura di ricordo vivo di Nunzio Rotondo con le stesse testimonianze di Nunzio, che mi hanno offerto l'occasione di conoscere appunto non solo il grande musicista, ma anche l'uomo di rara umanità, di grande amore per la vita e per la musica. Cominciamo subito ad ascoltare la sua voce un po' tremante di persona anziana, ma ancora viva di grande passione, di grande amore. Sentiamo questa testimonianza proprio di Nunzio relativamente al jazz. Il jazz per me è un'arte superiore, pura, sublime, è un dono celeste, è una musica che viene dal cielo. Il jazz è anche un mistero. Qualcuno ha detto: se vuoi sapere che cosa è il jazz, non lo saprai mai. Cosa posso dirti? Io so che cosa è il jazz. È difficile cercare di farlo capire a chi non lo sa. Il jazz è musica, pittura, poesia, insomma tutto ciò che viene creato con intelligenza, con amore e grande passione. A volte questa parola jazz confonde le idee della gente. Jazz per molti è una parola non gradita, solo perché non capita. Amici, jazz è soltanto una parola magica. Beethoven suonava jazz, lo sapevate? Non ci credete? Oppure mi chiederete come ha suonato jazz, ma Beethoven ha scritto musica colta, musica difficile. Beh, il jazz non è forse musica colta e difficile? Beethoven era un grande improvvisatore, si divertiva tantissimo a creare sul momento, improvvisando le sue variazioni. Perciò dobbiamo considerare un jazzista ante litteram. Sì, Beethoven era un jazzista jazz geniale. Il jazz non è nato nei campi di cotone dove l'uomo nero era schiavo, o dei canti folcloristici negri, gli spirituals, no. Quei canti sono molto belli, ma non c'entrano niente con il jazz. Da quei canti una sola cosa è stata presa in prestito: il blues, lo schema armonico del blues, le 12 magiche battute del blues, quel giro armonico così importante che un musicista nero di grande talento, capì subito che quelle poche battute sarebbero state tanto, tanto, ma tanto importanti. E proprio su quello schema armonico poteva cominciare ad esprimersi musicalmente, inventando le proprie invenzioni o variazioni, così, con semplicità, proprio come faceva Beethoven, quando con il suo pianoforte inventava le variazioni sullo schema armonico dei valzer di Diabelli. Io, nel mio piccolo, lo facevo sulle stupende melodie di Puccini. Il jazz italiano non veniva stimato assolutamente all'estero, veniva considerato la Cenerentola del jazz internazionale, ma in quegli anni, proprio nel 1952, Nunzio Rotondo con il suo sestetto si presentò a Parigi, alla Salle Pleyel, per il Salon du Jazz, appunto del 1952. Fu una serata memorabile proprio perché ci fu l'imprevisto fu quello di un grandissimo successo del sestetto di Nunzio Rotondo. Partirei subito con una registrazione rarissima che è appunto il live di quella serata memorabile. 29 marzo 1952, siamo a Parigi, siamo al Salon du Jazz, alla Salle Pleyel, e in questa serata Nunzio Rotondo si presenta ad un pubblico che pensava distratto, non attento e sicuramente non fiducioso nelle potenzialità artistiche di un gruppo italiano. Il sestetto di Nunzio Rotondo era formato da Nunzio Rotondo stesso alla tromba, Francesco Raffaelli al sax alto, Ettore Crisostomi al pianoforte, Carlo Pessa alla chitarra, Carlo Roffredo al contrabbasso, Gilberto Cuppini alla batteria. Il pezzo che fu eseguito era Stelle Filanti, chiaramente una composizione originale di Nunzio Rotondo. Ascoltiamolo. Thank you. In relazione a quella magica serata, non abbiamo soltanto questa registrazione rarissima che conserva chiaramente l'emozione del tempo con gli applausi e chiaramente anche con i disturbi della registrazione effettuata all'epoca con mezzi di fortuna, ma possiamo anche godere di una testimonianza vocale dello stesso Nunzio Rotondo che parla di quella serata, ascoltiamola. Che io insomma in quel periodo là scrissi tutto, scrissi Quartet, Stelle Filanti, sai, Quartet ancora si devono sentire delle cose così, scusa se ti dico questo, certo, insomma, certo. Contrappunto, fuga, cose che non si erano mai sentite nel jazz, capito? Sì. E insomma quando arrivammo lì ci dissero, beh suonate per primi, perché insomma dovete suonare per primi, perché dice beh tanto gli italiani non è che sanno suonare, insomma, capito? E pensa un po', insomma, l'emozione, che la delusione, studiato tanto, ma poi abbiamo fatto, sai che c'erano 20 minuti per uno, no? Sì. Poi dopo di noi c'era Scott, quel sassofonista inglese che c'è il club a Londra, no? Mm-hmm. Sì. Bravissimi dell'altro. E dopo di noi hanno suonato per 20 minuti e non si è sentita una nota. Perché i parigini, sai, sono terribili, si portano i sonaglini, cose, e insomma avevamo sbalordito tutti, capito? Tutti in piedi, dovette uscire Dizzy Gillespie che già prima mentre suonavo saltava tra le quinte. Sì. E lì uscì lui, calmò il pubblico e disse abbiamo proprio capito, è bravissimo, qua là lo sentirete suonare ancora. E lì poi nacque l'amicizia fraterna con Dizzy Gillespie. Hai visto? Senti là che bella soddisfazione. Dagli inizi degli anni 50 andiamo alla fine degli anni 50. Siamo nel 1959, precisamente il 30 giugno a Roma, il quartetto di Nunzio Rotondo vede al pianoforte Romano Mussolini, alla chitarra Franco Cerli e alla batteria Gilberto Cuppini. Il pezzo è sempre di Nunzio Rotondo, uno dei più famosi della sua carriera, Garinei Paulus. Buon ascolto, la registrazione è dell'epoca. Thank you. Bene, questa era la famosissima Garinei Paulus, uno dei pezzi più conosciuti di Nunzio Rotondo. In questo pezzo, come avete sentito prima dalla presentazione, era presente anche Romano Mussolini, il pianista che anche lui purtroppo è scomparso e con il quale ho avuto occasione di scambiare idee, di conoscerlo, di sentirlo dal vivo, di intervistarlo, di parlare di jazz. E Romano Mussolini mi raccontò delle sue esperienze con Nunzio Rotondo. Ascoltiamo appunto la sua testimonianza. La casa di Nunzio Rotondo era un po' come la casa di Benedetto Croce a Napoli, che e i suoi discepoli chiamavano i Vaccarielli. Noi eravamo i Vaccarielli di Nunzio Rotondo. Nunzio era ospitalissimo, un tipo originalissimo, ma lui aveva già ben precisa la sensazione che il jazz stesse cambiando, e lui era della corrente moderna, però sempre sul filone tradizionale del blues e di tutti i musicisti di colore che lui apprezzava in maniera incredibile. E così siamo diventati amici. Era un sodalizio proprio. Ogni pomeriggio si può dire andavamo a casa di Nunzio ad ascoltare dischi, si suonava, lui aveva la capacità in questa stanza di parlare al telefono mentre noi suonavamo, pensa, con la batteria, per cui immagina di che cos'era questa. Poi siccome lui teneva la finestra aperta d'estate specialmente, ci passavano quattro coppie di tram, per cui era, eppure lui riusciva a suonare, a parlare al telefono e a intrattenerci. Una scuola, quella di Nunzio è stata una scuola, una grande amicizia, poi abbiamo fatto parecchi concerti insieme alla fine degli anni 50, poi lo invitai alla Bussola di Sergio Bernardini per quella grande stagione di jazz, forse la prima, con tutti i musicisti italiani, perché con Bernardini scritturammo tutti i musicisti italiani, quelli che potevano venire. Veramente la crema di quel periodo. E li feci anche, diciamo, prendere qualche soldarello che non l'avevano mai visto. che questo era importante. Per me che Annunzio non interessava, no. Guarda, è un personaggio irripetibile, per cui ha fatto moltissimo per il jazz italiano, con la sua musica. Non lo so, è un grandissimo personaggio a cui sono particolarmente affezionato. Lasciamo gli anni 50 con un ultimo pezzo intitolato Noghi Tonghi Tagani, una composizione originale di Nunzio Rotondo scritta nel 1957. La formazione era Romano Mussolini al pianoforte, Nunzio Rotondo chiaramente alla tromba, Gino Marinacci al sax baritono, Aurelio Ciarallo al clarone, Franco Chiari al vibrafono, Sergio Biseo al contrabbasso, Franco Mondini alla batteria. Buon ascolto. Thank you. Un altro grande personaggio conosciutissimo che mi ha rilasciato una testimonianza sull'umanità e sul valore artistico di Nunzio Rotondo, vissuto da lui stesso in quegli anni, è stato Piero Angela. Piero Angela, che come sapete, oltre che essere uomo di scienza e presentatore di fortunate trasmissioni televisive, è stato anche musicista jazz e appunto negli anni 50 ha avuto l'occasione di vivere esperienze musicali insieme a Nunzio Rotondo. Sentiamo la sua testimonianza. A Torino c'era un complesso molto forte che faceva lo swing, sì, quello che si chiamava il Kansas City, sì, cioè anni 30, diciamo, sì, anni 40. E invece poi c'era la tradizione del New Orleans, del Dixieland. Io però mi ero spostato più sul moderno, sì, scoprì subito nel dopoguerra Dizzy Gillespie e Charlie Parker, Lenny Tristano e poi un sassofonista che è ancora attivo, che mi piace moltissimo, era Lee Konitz. Certo, certo. E quindi mi orientai, e anche Miles Davis ovviamente, che aveva messo su un suo gruppo con dei dischi bellissimi. Poi Miles Davis ha preso un'altra strada, Miles Davis prima maniera era, diciamo, il jazz californiano, sì, veramente mi aveva colpito molto. E quindi questo era un po' il mio genere, sì, cioè i modelli erano prima Teddy Wilson e Art Ehrum e poi Oscar Peterson. Quello è un po' il genere in cui mi situavo. Certo. E ebbi occasione di incontrare e di sentire Nunzio Rotondo in quell'occasione. E fui molto colpito, perché Nunzio Rotondo allora era veramente uno dei grandi in Europa. Ricordo che ebbe un successo a Parigi quando andò a un festival internazionale del jazz altissimo e fu considerato veramente una new entry, cioè l'Europa cominciava a dare dei grandi musicisti. Fino allora eravamo molto succubi un po' di studi americani, poi abbiamo cominciato a creare non solo in Italia ma anche in paesi europei di musicisti di livello internazionale. Quindi avevo occasione di incontrare Nunzio Rotondo, che era venuto a Torino per un concerto, credo, comunque per un'occasione. Lui mi sentì e fu molto interessato a me, tant'è vero che facemmo per la radio allora una serie di trasmissioni in quartetto. C'era lui alla tromba, io al pianoforte e una ritmica, e la ritmica era Berto Pisano alla Franco Mondini alla batteria. Sì. E quindi abbiamo fatto, purtroppo io non ho più queste registrazioni che andarono in onda, le parlo del 52 credo. Sì. E quindi chissà, saranno perse da qualche parte, mi spiace perché sarebbe stato un bel ricordo. Nunzio Rotondo era un uomo un po' particolare, devo dire, cioè talmente immerso nella musica, sì. era avvolto dal jazz, dalle note, dalla tromba, dalla sua visione del jazz, e usciva raramente, cioè era un po' fuori dal mondo, nel senso che non si occupava delle cose concrete. Era un grandissimo appassionato e suonava, mi ricordo, poi andai a casa sua a Roma con un'estate torrida in cui era torso nudo e suonava tutti i giorni da solo in casa, per poi suonavamo anche insieme. Io ho sempre ammirato di Nunzio Rotondo non solo la straordinaria passione che aveva, ma il grande talento. Sì. Veramente, e poi il genere che a me piace, perché poi sai, i musicisti di jazz hanno tante strade, hanno tanti stili. Quello di Nunzio Rotondo è proprio il tipo di jazz che si confà proprio nel mio modo di vedere questo tipo di musica. Lasciamo quindi gli anni 50, entriamo negli anni 60. Il gruppo di questa registrazione, che risale al 17 luglio 1964, ha in sé nomi particolarissimi. Nunzio Rotondo scopre un giovane pianista che si chiama Franco D'Andrea e diventerà uno dei più grandi pianisti non solo italiani ma oserei dire del mondo, e poi insieme a lui in questa registrazione abbiamo un altro nome internazionale, Gato Barbieri al sax tenore, poi Maurizio Maiorana al contrabbasso e Roberto Podio alla batteria. Il pezzo è un altro di quelli fondamentali nella carriera di Nunzio Rotondo, una sua composizione originale chiaramente, intitolato Noade. Sentiamola. In questo meraviglioso pezzo era presente il grande pianista Franco D'Andrea, che mi ha rilasciato questa sua testimonianza di Nunzio Rotondo. Ascoltiamola. Io ho incominciato a suonare con Nunzio nel 63. 63 voleva dire che avevo 22 anni. Eri proprio un ragazzino. È stato veramente geniale sotto questo aspetto, perché dare fiducia a uno che arriva così è pazzesco, insomma, evidentemente, certo, c'era, mi ricordo, la raccomandazione, fra virgolette, del bassista Maurizio Maiorana, sì, il quale mi aveva detto: guarda che c'è un ragazzino lì a Bologna, perché stavo a Bologna in quel periodo, Bologna, che insomma è swinga, è forte, dai, perché non lo provi, perché non è? Tanto insistete che a un certo punto Nunzio dice: perché no, fammelo sentire. Vado nel 63, mi ricordo nella primavera del 63, e mi ricordo ancora la prima volta, è stato nella sala, dunque era la sala B, non era la sala A, il Via Asiaco, Gran. E in questa sala enorme, io cerco Nunzio, ma non riesco a trovarlo, dico dov'è Nunzio? Poi a un certo punto lo vedo che stava in un angolo facendo suoni lunghi con la tromba. Sì. Perché lui era uno scrupolosissimo, affinava la tecnica, faceva i suoi esercizi, le sue cose, tranquillo, molto rilassato. Mi ricordo l'approccio fu tranquillissimo. Dopodiché si cominciò a suonare, e insomma a quel punto lì Nunzio è stato in qualche maniera la mia levatrice, dal punto di vista jazzistico. Questo è quello che mi ha dato fiducia subito. Lui non ho mai avuto la sensazione dal primo momento che Nunzio avesse dei dubbi che io non avrei potuto reggere la situazione. Ma io ero ragazzino e sentivo la radio, e Nunzio era già lì, insomma erano belle trasmissioni, e Nunzio si capiva lontano un miglio che era un personaggio che era già nato con l'idea del jazz dentro. Non c'era problema, il suo linguaggio era già molto puro e molto preciso, la pronuncia era bella, il suono era magnifico, insomma, era un musicista di classe senza nessuna forzatura, suonava il jazz come se fosse nato, che ne so, in un posto dove il jazz si era inventato. e si arriva così alla fine degli anni 60. Siamo nel 1969, alla Rai va in onda un grande telefilm che rimarrà nella storia, Nero Wolf con Tino Buazzelli. Nunzio Rotondo curerà la sigla, un pezzo veramente strabiliante, incredibile per la novità sonora di questa composizione. Siamo quindi nel 1969, ancora Franco D'Andrea al pianoforte, chiaramente Nunzio Rotondo alla tromba, Mario Panzeri all'organo, Luciano Madami al violoncello, Dodo Goia al contrabbasso, Bruno Biriaco alla batteria. Ascoltiamocelo. A proposito di questo straordinario pezzo, sentiamo la diretta testimonianza, i ricordi di Nunzio Rotondo. Sì, Qui ne goi è un mio brano. L'ho mandato in onda molte volte. La famosa e bravissima regista televisiva Berlinguer mi chiese di fare la sigla. E qui ne goi lo scrissi appunto per la serie televisiva dei Gialli di Nero Wolf. Sono storie divertenti nelle quali il finale era quasi sempre a favore dell'incredibile investigatore che scopriva ogni tipo di delitto. Sì. Nero Wolf fu interpretato egregiamente, come hai detto prima, da Buazzelli, un attore che dava tutto se stesso quando recitava, che non si risparmiava, come si dice in gergo. Certo. Buazzelli era un Nero Wolf impareggiabile, veramente, ma veramente bravo. E poi era un grande appassionato di jazz, seguiva molto le mie trasmissioni, vabbè, ma adesso non parliamo di questo. Ma vedi Bruno, per imparare bene bisogna guardare sia indietro anche nel futuro. Sì. Perché non si possono dimenticare le cose belle. Questa sigla, se tu l'ascolti bene, tu ti accorgerai che proprio ti fa sentire tutto quello che c'è nel poliziesco, capito? Sai che cosa mi piacerebbe? Che qualche simpatico dirigente Rai riproponesse questa serie di Nero Wolf, perché è bellissima. Certo, la dovrebbero rimandare in onda, come fanno tante volte, no? Rimandano in onda. Sicuramente, sicuramente. E questa è stata una delle più belle, è stata veramente un qualcosa di unico. Nunzio Rotondo per molti anni ha curato delle trasmissioni radiofoniche alla Rai e tra gli ascoltatori più appassionati aveva anche l'ex presidente Pertini, che ebbe il piacere di conoscere a Selva di Val Gardena. Fu invitato dal presidente, lui si stupì molto di questo invito e gli furono fatti i complimenti più vivi, più sinceri per le sue trasmissioni. Rimase un'amicizia molto dolce, molto forte, molto intensa, un'amicizia che poi si è sviluppata attraverso molte lettere. E Nunzio Rotondo era stimato a livello internazionale. Prima è stata citata l'amicizia con Dizzy Gillespie, ma Nunzio Rotondo ha avuto occasione di suonare e di diventare amico di Miles Davis e di Duke Ellington. L'incontro con Miles Davis fu caratterizzato da momenti di tristezza improvvisa e poi di grande piacere. Appena furono presentati, Miles Davis non dette molta importanza a questa presentazione, si rigirò e lasciò solo Nunzio Rotondo, che rimase molto deluso. E Nunzio iniziò a suonare un piccolo pezzo. Miles Davis, ascoltate queste poche tracce di musica, si accorse immediatamente del valore di Nunzio, si rigirò, ritornò verso Nunzio, lo abbracciò, lo chiamò brother, fratello, e gli offrì subito di provare il suo bocchino. Da quel momento nacque un rapporto di stima e di amicizia, così come fu invitato a suonare durante una tournée nell'orchestra di Duke Ellington, perché Duke Ellington, appena lo ascoltò, riconobbe un suono nero, così come mi raccontò Nunzio, che lo fece familiarizzare con la tromba di Nunzio Rotondo. Adesso ci ascolteremo l'ultimo pezzo della serata, fa parte di una registrazione introvabile, è un live. Il pezzo si intitola Lo sai che, e dopo questo pezzo sentiremo le ultime parole e un saluto veramente profondo e particolare di Nunzio Rotondo. Il pezzo Lo sai che è interpretato da Nunzio Rotondo alla tromba, Enzo Scoppa al sax tenore, Franco D'Andrea al pianoforte, Eddie Palermo alla chitarra, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Giampaolo Ascolese alla batteria, Ramberto Ciammarughi alle tastiere. Buon ascolto. Thank you. Nunzio Rotondo ricordava come nel canto degli usignoli si potesse riscontrare l'improvvisazione del jazz. A me piace pensare che adesso gli usignoli accompagnino con il loro canto l'ultimo assolo del nostro grande Nunzio Rotondo nell'ultimo volo che lo porterà a fare ancora musica paradisiaca, appunto, in paradiso. Vi voglio lasciare con delle parole toccanti dello stesso Nunzio Rotondo, il suo saluto, il saluto della sua anima. Ascoltatelo. Lo sai che l'uomo è destinato alla gioia, ma che egli non lo sa. Lo sai che l'uomo è destinato all'amore, ma che egli inconsapevolmente fa di tutto per distruggerlo. Lo sai che l'amicizia è il dono più prezioso dell'animo. Lo sai che quando si ama tutto il mondo è felice, perché chi ama fa partecipare il mondo della sua felicità e cerca di modellarlo alla sua immagine e somiglianza. Lo sai che solo la solidarietà fra gli uomini e i popoli può salvare l'umanità e il nostro pianeta Terra dalla catastrofe. Lo sai che il clochard non accetta compromessi nella sua professione di clochard e che da lui dovremmo prendere tutti esempio per non scendere mai a compromessi che deturpano il nostro animo, modificano la nostra immagine, cambiano i nostri colori, i nostri suoni, le nostre armonie interiori. Ma forse tutte queste cose ognuno di noi le sa, soltanto che ha paura di dire a se stesso di saperle. Solo la fisicità del corpo di Nunzio Rotondo ci ha lasciati, ma la sua anima, il suo amore per la musica e per la vita e la sua musica rimangono e rimarranno sempre con noi. Io ti voglio tanto bene, caro Nunzio, e ascolterò sempre la tua musica ricordando la tua umanità, ricordando la tua poesia, ricordando la sensibilità della tua anima. Ciao Nunzio, buon viaggio e buona musica in paradiso.